quando è una donna te fa nughe de spiaggia, ma se una donna te fa nughe piace, mi non capisci proprio c'è se sei de mu oppure no. Quando è che dico de dambagin a un me bellin, quando è una donna te fa ma poi te caccia e poi te lascia solo, tu sei da sola non ti pe senza qualche nessun per cavarca se non o a te fa su beven got magari errate le mani un po', ma poi te piggio e te rigio, te dago in corpo e te dico addio. Cusci sta sei a ti che è una sorpresa, perché mi sumiscio a me donna me fa no e mi che spariscio. Quando è una donna te fa che maviggia, che bella figgia, ma te scemo metti su e man però o a mi te beccio un po', poi tu cammi de di che quando è a vedu che parla anche mentre mo su sanu cacciu pei ne isha lingua ne isha musa. Se mi prego staghi a prevo du tempo, poi me casa ne balle e me ginciampo. Se mi prevo a fa un romantico, poi me dijan tutte cusci. Ma quando è lei che se beccia, se ti che dici te una bella figgia, ma ti te tre pustigia, tutte donne te fan uè, poi ti arriva l'erfum, ti te incafu. Quando è una donna te fa che maviggia, che bella figgia, ma te scemo se femmo chi però mi me vergogno un po', ma poi come sa che a me e me pade se c'è l'altalena non cose dile ma mi consulta una bella suena. Finché donne te fan, finché donne te fan. Ti tu pa normale, ma se la donna te fa tiè, poi va in tribunale, mi me vergogno un po', ma de dine mi nughe no, no, ma se ti veux mi posso date, senza pagare il sacco de cappelle. Ragionci tutti i soldi da spende, deve le miande, ma mi non me metto a fare parole, me caccio in tu letto. E poi che fa su craino? E poi che fa su craino? Perché donne mie ne capisci, però non riesci a stare senza.